Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Per dare un'idea dell'impresa compiuta ieri sera dall'Inter, provo a farmi aiutare dai numeri, che non sono tanto quelli dell'audience. Li sto rintracciando, parliamo di 9 milioni e qualcosa di telespettatori, ma insomma ne fa anche di più il Festival di Sanremo, e il paragone sinceramente non è lusinghiero, perché lo spettacolo di Inter Barcellona è stato ben altra cosa. No, i numeri che mi ha fornito il nostro Franco Piantanida. Allora, il Barcellona di Guardiola, da quando c'è lui alla guida del Barça, in 115 partite, che non sono proprio due o tre, in 115 partite non ha mai perso con due gol di scarto. E non solo, ma in Champions League era stato proprio Mourinho, allora al Chelsea, a infliggere per l'ultima volta due gol di scarto al Barcellona nella stagione 2004-2005, l'8 marzo 2005, quindi 5 anni fa. Poi anche in quell'occasione il Barcellona si infuriò con l'arbitro, che era Collina, per ragioni arbitrali, ma insomma queste sono poi, per chi ha visto con attenzione e senza prevenzione la partita di ieri sera, sono considerazioni accessorie che hanno la loro importanza e che certamente pesano, come erano pesate in occasione della partita d'andata con il Chelsea, ma che, ripeto, passano in secondo piano rispetto alle prestazioni delle due squadre. Il commento di Mourinho. Quasi perfetta. Mancava non subire quel gol, perché è un gol in una situazione identificata per noi come una situazione di pericolo potenziale. La costruzione corta, bassa, è quello che loro vogliono per pressare alto e recuperare il pallone. Abbiamo fatto una volta, abbiamo sbagliato. La finale è lontana, la finale, la distanza alla finale è uguale per noi e per loro. Non penso che siamo noi più vicini. Gli interisti sono orgogliosi di questa squadra e solo ci sono due possibilità dopo la partita di Barcellona. O andiamo a Madrid o torniamo a casa con la testa altissima di una Champions fantastica, con 6 vittorie consecutive che abbiamo fatto fino adesso, e con una squadra che se non vince Champions quest'anno vince il prossimo, vince dopo due. Però è una squadra che è andata in un anno di una squadra piccolina di Champions a una grande squadra di Champions, e questo nessuno può rubare questo del lavoro che abbiamo fatto tutti noi. E questo mi pare sia assolutamente indiscutibile. Chi ha visto la partita ieri sera e assistito alla rimonta dell'Inter, a quei 10-15 minuti circa che sono passati tra il gol del Barça, che evidentemente pesando doppio non poteva non avere un'influenza che sembrava a quel punto decisiva sulla partita, bene, lo spirito di reazione che ha avuto l'Inter in quel momento, il gol che è riuscito a trovare, sia pure su un errore clamoroso di Dani Alves, che ieri sera e anche stamattina ho sentito soltanto parlare di Ibrahimovic e Messi come elementi negativi della serata, non c'è nessun dubbio, ma Dani Alves mi è sembrato peggio di Zebina nella Juve in Inter-Juventus l'altra sera, e sinceramente non credevo che oltre quello Zebina si potesse andare. E poi, soprattutto nel secondo tempo, quando una squadra che gioca a memoria e che comunque la testa non la perde mai, la testa non nel senso dei nervi, ma il controllo della situazione, di se stessa, non la perde mai come il Barcellona, dopo la doppietta dell'Inter l'ha persa, e a quel punto io credo che la sensazione più diffusa fosse quella del 4-1, del 5-1, cioè davvero della goleada. Tanto più meritoria se si pensa che poi alla fine, quando il Barcellona invece ha passato quella buriana e si è ritrovato, ha rischiato seriamente ed è arrivato vicinissimo in almeno tre occasioni al gol del 3-2, che avrebbe cambiato indubbiamente il rapporto di forze per il ritorno. Comunicazioni di servizio: Antonio Della Torre da Riccione, che è un cliente, lo dico con grande affetto affezionato, segnala che la radio si sente a singhiozzo, e questo è un problema, così come lo segnala Alessandro Leari da tra Reggio Emilia e Parma, in particolare sulla via Emilia in provincia di Reggio. Lui dice che spesso e volentieri intorno alle 14 la linea è disturbata e gli tocca perdersi quasi la prima metà della trasmissione. Chissà se c'è un'interferenza oraria da quelle parti, segnalo anche questa perché ci si provi a porre rimedio. Il commento sulla sconfitta di Guardiola. È semifinale della Champions League, quindi è sempre difficile, lo sappiamo, ma ci proveremo. 90 minuti in Barcellona a volte sono lunghe e ci proveremo. Non andiamo a fare uno o due gol, a fare di più, e andremo a farlo bene. Aspettiamo a riposarci un po' e a provarlo. Champions League è dura, ci abbiamo provato, diciamo che non abbiamo fatto girare la palla così veloce nel primo tempo, avevamo molto molto spazio e non abbiamo avuto quella continuità per diverse ragioni, ma a volte succede, giochiamo contro una buona squadra, con grandi campioni, e ci proveremo nel ritorno. Alcune mail, non vi dico quante ne sono arrivate da ieri sera, da 10 minuti dopo la fine della partita di ieri sera fino adesso, e stanno continuando. Ne scelgo alcune. Daniele Zamboni: credo sia l'anno giusto per l'Inter, vista la tenacia e l'ardore che dimostra sul campo. L'innovatore Mu vince col catenaccio e il contropiede, fantastico. No, io però aggiungo anche il catenaccio e il contropiede, ma con un pressing altissimo che una volta non esisteva, perché una volta il catenaccio e il contropiede significava chiudersi nella propria area e da lì ripartire per il contropiede. Qui invece la cosiddetta ripartenza di oggi, o contropiede, o come si chiama oggi o come si chiamerà domani, avviene cercando, andando a rubar palla molto più alti e non nella propria area di rigore. Le sottopongo anche, conclude questo ascoltatore Daniele Zamboni, all'interno della Gazzetta l'agghiacciante intervista del tifoso accoltellato a Roma. L'avevo già messa da parte, adesso andiamo avanti un po' con l'Inter e poi grazie della segnalazione, ma sinceramente una di quelle cose che non potevano sfuggire. Non si può fare a meno di fare i complimenti a una grande Inter, scrive Giulio Torelli, ma almeno a pari merito metto la signorilità di Guardiola, che davanti alle telecamere ha ammesso l'ottima prestazione in nerazzurri e quando è stato stuzzicato su episodi Roma Viola ha glissato dicendo sempre col sorriso: piace a voi fare questi discorsi, io oggi devo solo fare i complimenti all'Inter. Incalzato sul viaggio in pullman ha risposto: non saprei quanto ha inciso, ma non importa, non sono uno scienziato, l'unica cosa che so è che al Camp Nou dovevamo vincere 2-0, il resto non serve a nulla. Di contro Mourinho, alle proteste di Xavi, ha risposto riferendosi a Chelsea-Barça dello scorso anno: non tutte le partite potete avere Ovrebo. Cosa c'entrava Mourinho in quella semifinale? Questo lo sa soltanto lui, insomma. Non. Ieri sera credo che si sia una volta di più acuita la forbice tra la statura dell'allenatore e la statura dell'uomo, che è proprio di gran lunga inferiore. Sentiamo proprio a questo proposito quello che Mourinho ha detto in prospettiva, direi, sul Barcellona. Io conosco Barcellona, conosco la squadra, che è fantastica calcisticamente, però dopo conosco Barcellona. Ho giocato in Barcellona eliminatorie, no, girone con Chelsea, ho giocato eliminatorie e conosco Barcellona negli eliminatori. Anche loro sono furbi, sono grandissimi giocatori, però allo stesso tempo sono furbi. E quello che è successo già nel tunnel dopo la partita non è il fine di questa partita, è l'inizio della prossima. Riferimento a tante parole, tante emozioni non vere, emozioni finte, che si volevano trasmettere in quello spazio là. E poi ha aggiunto in un frammento successivo: si voleva mettere pressione sull'arbitro. Beh, insomma, era un po' tardi per mettere pressione sull'arbitro, occhio e croce, che comunque quello che doveva combinare a danno del Barcellona l'aveva già combinato. Ma nel dubbio mai accusare ricevute di un favore, no? Nel dubbio sempre soltanto protestare preventivamente per quello che eventualmente potrà accadere e che poi ovviamente dovendo ancora succedere sarà poi tutto da dimostrare, ma d'altra parte se no, no non sarebbe Mourinho e non sarebbe il famoso Chaltre One. Qualcuno dovrebbe, poi certamente c'è il capitolo, sto frugando tra le mail perché ce n'era una proprio a questo proposito che mi era sembrata molto carina, eccola qua. Simone da Treviso scrive: probabilmente mi sono distratto durante la partita perché non ho visto Mourinho mimare le manette mentre l'arbitro dava simulazione a Dani Alves invece che rigore. Lei ha notato qualcosa? No, non ho notato nulla neanch'io, ma tutto questo, ripeto, però non inficia minimamente una grande partita. I due gol di scarto che l'Inter ha ottenuto ieri sera sul campo ci stavano ampiamente sul piano del gioco. Ripeto, a un certo punto c'era anche la sensazione precisa che questi due gol di scarto potessero diventare tre e potessero diventare anche quattro. Non è successo per pochissimo e poi alla fine va bene, c'è stato uno di questi episodi che fa ancora più sensazione, visto che qualcosa di simile, anzi di anche di più notevole e di reiterato era già successo col Chelsea. Ma quello che ulteriormente impressiona è che, ripeto, ci sia sempre soltanto la ricevuta del torto, del presunto torto, mai lo scontrino, no, del favore conseguito. Non li conservo quegli scontrini di Mourinho, si vede che con quel che guadagna non ha problemi di rimborsi spese. Proprio a Barcellona, meno di un'ora fa, è morto Juan Antonio Samaranch, l'ex presidente del CIO, l'ex storico presidente del CIO, aveva 89 anni ed era stato ricoverato domenica per problemi cardiaci. Prima di dare, come dire, la stura, ma lo dico con molta simpatia agli amici già collegati da Varese, da Brescia, da Napoli e da Treviso, volevo dar conto di quella intervista segnalata anche da un ascoltatore, di cui vi ho letto la mail prima, al ragazzo accoltellato alla gola domenica sera scorsa dopo Lazio-Roma. E questo ragazzo si chiama Maximiliano Ioele, ha 22 anni, è un tifoso della Roma e un bravissimo cronista della Gazzetta dello Sport lo ha raggiunto al settimo piano dell'osservazione breve chirurgica del Gemelli di Roma, nel reparto osservazione, sdraiato sul lettino numero 31. Massimiliano domanda: tu sei sopravvissuto in una notte di follia, hai avuto paura di morire? Sì, per qualche minuto, ma me la sono cavata. Cosa ricordi di quei momenti? Tutto, sono rimasto cosciente. Sei stato aggredito alle spalle, quanti erano? Non lo so, non li ho visti, è stato un attimo. Cosa pensi dei tuoi aggressori? Niente, che devo pensare? Potevano ucciderti. E allora? Dovrei dire che sono infami? No, allo stadio le coltellate si prendono e si portano a casa. Perché ti trovavi a Ponte Vivio in mezzo agli scontri? E lo vengo a dire a te? Allo stadio ci tornerai? Certo, perché non dovrei? Perché è stato un derby così violento? Non avete firmato un patto di non belligeranza? Sei poco informato. Il problema è con il gruppo laziale in basso a destra, questo lo dici tu. Ma tu appartieni a qualche gruppo? La conversazione è finita. Ripeto, questo ragazzo ha rischiato non più tardi di 3 giorni fa la vita e alla domanda potevano ucciderti ha risposto: allo stadio le coltellate si prendono e si portano a casa. Emanuele, provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini, buongiorno. Tra l'altro non avevo letto l'intervista, mi ha lasciato di stucco mentre aspettavo il mio turno. Comunque volevo dire 2 cose sull'Inter. Uno, che sono veramente orgoglioso della mia squadra ieri sera, perché abbiamo fatto veramente delle cose straordinarie. E poi sul discorso Balotelli, io da tifoso sinceramente sono veramente stufo, perché non è possibile tutte le volte vedere un giocatore che entra in campo camminando, con fare veramente indisponente, gioca con sufficienza, evidentemente vuole essere venduto. Secondo me prima lo vendiamo e meglio è, ecco, era semplicemente questo. Grazie, buona giornata. Grazie a lei. Credo che oggi, con parole leggermente più, sfortunatamente più calde e più, diciamo pure anche più incendiarie le sue, questo sia lo stato d'animo del 90-95% degli interisti. Scrive Nicola Rimoli: qualcuno dovrebbe ricordare a questo ragazzo poco educato che quelle maglie, riferendosi al lancio della maglia finale, le hanno indossate Armando Picchi, Giacinto Facchetti, senza stare a scomodare Peppino Meazza, ma l'elenco potrebbe essere evidentemente molto più lungo. È anche vero che ci sono opinioni non diverse, non contrarie, ma opinioni così che completano il quadro. Scrive per esempio Pasquale Cataldi, che è un altro affezionato corrispondente, che scrive dalla Francia tra l'altro, e che quindi, come tutti quelli che ascoltano in podcast e scrivono poi dall'estero, hanno, come dire, un punto di visuale più distaccato e secondo me più favorevole ad un quadro insieme. Scrive: al di là delle belle vittorie e delle isterie di Balotelli, mi chiedo se sia normale che alcuni tifosi possano attendere un giocatore nei pressi della sua auto, nel garage dello stadio, e che uno gli possa tirare un ceffone. Anche questa è una buona domanda. Un'altra buona domanda è se il tutor, no? Mi pare di capire che la società ha affidato, comunque aveva scelto, comunque a cui aveva delegato qualcosa, il tutor si chiama Materazzi. Credo che questo possa, come dire, non aver giovato perfettamente all'intervento, no? Che sul giocatore comunque andava fatto. Fabio Brescia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Laura, qualche piccolo appunto qua e là, ascoltando sempre la sua trasmissione. Sconvolto dalla lettera del tifoso stamattina nella lettura del giornale. Lo credo. Proprio sconvolto, infatti avvalla l'idea che ho avuto 6-7 anni fa, l'ultima volta che sono stato allo stadio, e mai più ci metterò piede finché leggerò queste cose qui e tutto quello che ruota intorno al mondo calcio. Non ultima la sua uscita dell'altro giorno, quando parlava di questa odissea per il pullman del Barcellona, arrivare, per inciso, complimenti all'Inter per la bellissima prestazione, da italiano ne sono fiero. Io simpatizzante bianco-nero, ci tengo a dire simpatizzante perché tifoso è un appellativo che mi parola grossa. Dirlo. Sì, guardi, dopo la lettera di stamattina veramente è una roba incredibile. Beh, però tenga conto, Fabio, mi scusi però una cosa, tenga conto che io preferisco sentirla autodefinire simpatizzante rispetto a tifoso, perché lo trovo comunque uno stadio più favorevole, ma tenga conto che però lei ha tutto il diritto di essere un tifoso, perché non è un tifoso quello che dice quelle cose di stamattina. Purtroppo vengono associati quasi sempre si dice il tifoso. Quando quell'associazione lì è una parola che mi disgusta. Sei anni fa a me è capitato, è l'ultima volta che ci ho messo piede, ero a San Siro a vedere in Coppa Italia Inter-Juventus, adesso non mi ricordo neanche il risultato, e circa alla metà del secondo tempo due ragazzi, io sono juventino, erano dell'Inter, ma nulla sta alla bandiera in questo caso, passavano davanti a noi che eravamo, io ero seduto tranquillamente, neanche in un settore ultras, quindi lontano, fuggì da me l'idea di essere in mezzo al caos e così, e guardando gli spettatori, quindi non sapevo neanche se in campo c'erano i giocatori, chi giocava, potevano essere una spiaggia di nudisti, che per loro era indifferente. Sì, sì. E tre file davanti a me hanno preso di mira un ragazzo che aveva la sfortuna di avere la berretta bianconera. Cioè, non c'è dubbio. Ma Fabio, mi scusi se la interrompo, ma ci sono molti altri che chiedono di intervenire. Non creda che sia un episodio così raro, e non creda che sia riservato a partitissime oppure a grandi rivalità storiche tra grandi squadre. Queste cose ormai accadono normalmente, credo anche a livello giovanile, anzi so anche a livello giovanile, quindi, ma questo... per la milionesima volta il degrado della società, ben prima che il degrado del calcio o di quello che circonda il calcio. Per questo facevo quella distinzione tra la parola tifoso e la parola delinquente, no? Francesco Napoli, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Allora, io sono un tifoso sano della Juventus, ieri sera ho seguito la partita dell'Inter, complimenti per la vittoria, anche se qualche decisione arbitrale, come abbiamo già detto. Volevo più che altro sottolineare l'atteggiamento, che veramente mi ha sorpreso per signorinità, dell'allenatore del Barcellona Guardiola, che non ha fatto certamente riferimento al viaggio in pullman, alle decisioni dell'arbitro, tipo il rigore, il gol dell'Inter in fuorigioco, ma praticamente non se ne è uscito in maniera molto signorile, dice, parlando già della partita del ritorno. Secondo lei, senza fare retorica, questi atteggiamenti non favoriscono, non migliorano il mondo del calcio? Certo che migliorano il mondo del calcio. Parlando anche di violenza, di aizzare le curve, eccetera. Ma curve, no, io su questo non sono d'accordo. Le curve si aizzano da sole, è il discorso dell'altra sera. Non è che il gesto di Totti oppure lo sgambetto di Grado hanno cambiato qualcosa nella testa o nelle intenzioni di gente che comunque aveva in macchina degli arsenali, no? O che aveva i suoi bravi coltelli, le loro lame, come le chiamano loro. Già pronte all'uso, quindi su quel tipo di nesso no, è la parte sana e migliore del tifo, che comunque anche in Italia è migliore fino a un certo punto, e una ripassatina dei fondamentali gli potrebbe servire, a queste persone recuperabili, secondo me le altre non sono recuperabili. Alle persone recuperabili, ad un tifo più civile e a una sportività superiore, è chiaro che un atteggiamento come quello di Guardiola fa da riferimento, un atteggiamento come quello di Mourinho profondamente diseducativo. Scrive Simone da Bergamo, che riassume secondo me stupendamente la serata: Mourinho lezione di calcio, Guardiola lezione di sportività. Direi proprio di sì, anche perché mi pare che a Guardiola qualcosa ieri sera, se poi con qualcuno di voi cominciamo a parlare di pallone, mi pare che qualcosa Guardiola ieri sera possa anche essere imputato. Daniele Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Complimenti doverosi. Io sono milanista, quindi quello che le dirò glielo dico in una situazione di equità totale, e riferisco a come vengono trattati alcune gesta, alcune situazioni con delle squalifiche, quindi dalla bestemmia alle manette e quant'altro, e di come in questo periodo prevale questo apparato romano che grazia Totti per il gesto che ha fatto, che è disdicevole. Tra l'altro è andata bene anche al giocatore della Lazio, perché chiaramente graziando lui hanno dovuto graziare anche l'altro giocatore, che secondo me andava squalificato così come andava squalificato Totti. E queste cose onestamente sono antipatiche, anche perché le discussioni che si sono sentite nel dopo partita dall'allenatore della Roma e dai giornalisti romani erano, ma tanto nel derby queste cose succedono. Se la stessa identica cosa veniva fatta in un altro stadio da altri giocatori, parlo te, di uno a caso, sarebbe venuto giù Quindi, ho già detto ieri, non sono assolutamente d'accordo con questa tesi, o meglio, sono d'accordo su Radu. Io credo che per quello che riguarda Totti sia stato un gesto, certamente quelli di buon gusto sono diversi, ma se ne è parlato a lungo ieri e ho letto anche opinioni di terzi, ho letto opinioni illustri e mi pareva che grosso modo tutte, con l'eccezione di quella di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, ma le eccezioni confermano la regola in questo caso, fossero invece di segno diverso, e cioè nel senso che quello era un gesto a cui una multa poteva essere sufficiente. Poi Mourinho, mi pare che sentiremo più tardi Mourinho che dice che invece è di opinione opposta, e anche questa è un'altra bella prova del 9. Oh, è normale che quella di oggi sia una trasmissione praticamente monografica, no? Dedicata al dopo Inter Barcellona. Mi piacerebbe che quei vostri interventi diventasse un pochino più tecnica, un pochino più tattica e un po' meno morale o comportamentale, però insomma vediamo se ci riusciamo. Però ci sono due parentesi: la prima è stata quella in cui vi ho letto quel documento agghiacciante, quell'intervista alla Gazzetta dello Sport dell'ultraromano accoltellato domenica sera, quest'altra, se Dio vuole, di tutt'altro segno, e l'avevo anticipata già ieri. È la lettera di un signore che si chiama Hermes Carra e che l'ha fatta scrivere al figlio Giacomo. Capirete poi sul durante il perché. Chi le scrive è un vecchio ormai acciaccato tifoso juventino dell'Emilia. Non seguo più la mia Juve dall'estate 2006, da quando il calcio si è fatto sporco, e adesso dopo 70 anni di Juve alla domenica porto i miei nipotini al parco provando immensa gioia, visto che sono bisnonno. La prima volta che andai allo stadio mi portò mio padre, ancora i bambini non pagavano, si guardavano le partite nel parterre, vidi Juventus Reggiana, la partita finì 5-0 e ancora oggi mi ricordo come fosse ieri il gol di Carlo Bigatto, chissà chi era Carlo Bigatto, il 3 gennaio del 1926. Corso Marsiglia a Torino, c'erano ancora le carrozze e i cavalli e io avevo 6 anni, quindi questo signore quest'anno ne compie 90. Da quel dì iniziò il mio amore per il calcio a tinte bianconere, che mi portò a ammirare i Boniperti, Sivori, Parole, Ciarsi, Platini, fino all'ultima partita che vedi allo stadio, Juventus-Liverpool all'Aisel. Da quel giorno giurai a me stesso che non avrei mai più messo piede all'interno di un campo, e lo feci. Quando oggi sento invocare dai giovani il ritorno di Moggi, mi rattristo. Moggi ha rovinato la Juventus, ricordiamocelo sempre. Le ultime vittorie juventine, purtroppo, non erano limpide e si vedeva a occhio nudo. Bisogna avere ora la forza di scrollarsi di dosso e ricominciare assolutamente a giocare e a vincere come la Juve ha sempre fatto, ma senza arrampicarsi sugli specchi, senza fare di ogni erba un fascio, perché lo stile Juventus era quello di Boniperti presidente e non quello delle aule di tribunale. Ringrazio mio figlio per aver trascritto questa lettera, io non sarei stato capace perché sono troppo vecchio, un po' sordo e ormai ci vedo poco. Spero in una sua risposta in radio, l'ascolto tutti i giorni. Saluti da Hermes Carra e da suo figlio Giacomo. La risposta non può che essere evidentemente un abbraccio ad un novantenne che ha ancora questa memoria e questa lucidità e questa capacità di giudizio. Matteo dalla provincia di Pesaro. Anzi, Pesaro Urbino, per evitare poi rivalità intestine. Pesaro Urbino, la provincia è quella, così si chiama. Grazie. Bellissima la lettera dell'ascoltatore novantenne. Sì. A proposito del signore, chissà quanti sfottò anche lui avrà utilizzato nelle curve, e probabilmente una volta si poteva fare. A proposito di questo argomento, ieri Caramellini ha detto tutto, insomma, concordo, certo, con lei. Certo. Niente, le rimando però ancora un po' il discorso calcistico. Ah, me lo faccio poi da solo, tra un po'. Se... perché volevo solo farle presente una cosa, perché io l'ascolto spesso, anche se spesso mi fa arrabbiare. Alla luce dell'ingresso in campo di Balotelli di ieri, non crede che le accuse di razzismo, l'etichetta di razzismo che è stata utilizzata nei confronti delle curve di mezza Italia vada diciamo, perlomeno un po' smorzata, perché... No Matteo, no, mi scusi, non voglio troncare, voglio soltanto sintetizzare. No, e le spiego la ragione. Cioè, se il coro fosse stato... stupido, no? Gli avessero detto stupido, gli avessero detto, non so, immaturo, e poi ovviamente colorendo questo concetto, no? Ma insomma, invece gli urlavano altro, no? Che adesso sappiamo bene a memoria, e quindi non va ridimensionato affatto. Non capisco perché derubricare quello che ormai è agli atti, perché così era successo. Secondo me quella di ieri sera, scrive Sebastiano a Milano, è stata l'ultima volta che Balotelli ha calpestato il Prato di San Siro con la maglia dell'Inter. Cosa ne pensa? Penso di sì, me lo auguro per l'Inter e per lui a questo punto, perché è chiaro che non hanno più, mi sembra evidentissimo che non hanno proprio più nulla da dirsi. Luciano Pipolo, in un'altra mail, si fa una domanda che mi ero fatto anche ieri sera. È la seguente: se ti devi coprire, perché metti in campo Balotelli e non un centrocampista o un difensore? Mu conosce il carattere di Balotelli e si è vendicato machiavellicamente mettendogli contro la squadra e i tifosi. No, Luciano, io la seguo fino a metà, no? Fino a metà la seguo. E la seguo sul serio, perché non ho capito perché a quel punto, avendo bisogno di un tampone, no, su quella corsia, non inserisce per esempio Cordoba dietro e non avanza Zanetti. Lo straordinario Zanetti di ieri sera, secondo me il vice migliore in campo dopo un Milito da fantascienza. Non capisco perché non avanzare Zanetti e non mettergli dietro Cordoba, per esempio, se tu hai bisogno di tamponare quella fascia. Lo sai che Balotelli, oltre a essere indolente, oltre ad avere altri problemi che vanno oltre l'indolenza, ma è anche uno che non ha proprio nel suo DNA la rincorsa dell'avversario, cioè fa proprio mentalmente fatica a calarsi in quella parte. Quindi secondo me quello è stato un discreto errore, però non arrivi a dire che si è vendicato, cioè machiavellicamente che cosa? Cioè un quarto d'ora alla fine stai battendo 3-1 a Barcellona e fai un cambio sbagliato per sputtanare Balotelli. Cioè io credo che ci voglia una discreta, no, Luciano? Come le viene in mente una roba così? Federico da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, salve. Io voglio dire, intanto, grande Inter ieri, bello, insomma, fa bene al calcio italiano di una partita del genere. E poi però purtroppo volevo parlare del derby. Io sono andato domenica, ero in tribuna Monte Mario, e diciamo già dall'inizio si vedeva che ci iniziavano gli scontri. Poi non capisco ancora come è possibile che entrano fumogeni, bombe carta ogni volta allo stadio. Si è iniziati a menare già da prima, poi c'erano i poveri steward che stavano lì e non potevano fare niente, e poi arriva la polizia. Cioè, si sapeva comunque sarebbe finita così in tribuna Tevere. Perché bisogna arrivare a tanto? Ha ragione Federico, pensi che, l'ho detto, non so più se ieri o lunedì, che avevo ricevuto la settimana scorsa una mail di un signore, di un sessantenne steward laziale che preannunciava, cioè che sì, preannunciava, ma non perché lui ne fosse protagonista, sia ben chiaro, sapeva che sarebbe stato vittima lui e lo stadio intero e il resto della tifoseria di qualcosa che sarebbe comunque nato dalla tribuna Tevere, quindi niente di nuovo sotto il sole. Vuol dire che al posto di Ibra avrebbe dovuto inserire Bojan? Domanda Daniele da Bologna. No, oppure sì nel finale, non lo so questo. Voglio dire che alla fine del primo tempo Zebina, cioè Dani Alves, era palesemente da levare, secondo me. Intanto mi sembra, no, non era già ammonito, però comunque ne ha fatte peggio di Carlo in Francia. Il gol che l'Inter segna, il gol dell'1-1, è pazzesco che Sneijder abbia completamente l'area sgombra, perché Dani Alves va a sommarsi ad altri due che già stanno chiudendo su Milito per andare a fare il terzo, no? Lasciando libero Sneijder. In avanti non ha cavato un ragno dal buco e ha crossato 3 volte per i fotografi o per le prime file della curva, e quindi secondo me nell'intervallo un Pujol sulla destra, per esempio, spostato di lì, e un altro da inserire al centro che poteva essere il fratello di Milito, oppure Abidal sulla sinistra, insomma, credo che almeno quello come correttivo nell'intervallo, perlomeno me lo sarei aspettato. Poi è chiaro che la partita la guardi ed è molto più facile, ma insomma, da Guardiola ieri sera qualcosina di più come lettura della partita sul durante. Da Alessandria, Mauro, buongiorno. Pronto, buongiorno. E dica. Grazie di avermi richiamato e grazie per l'educazione che ci trasmette sempre. Due commenti ultra veloci. La prima, a livello tecnico non sono interista, ma i complimenti all'Inter, perché secondo me una delle chiavi della partita è stata non far arrivare i palloni a Messi, che non ha mai preso il ritmo della partita, e quei pochi che riceveva poi non riusciva a saltare l'avversario, e per lui è una cosa abbastanza strana. Li scaricava, ma quella, vede, io non voglio difendere Messi ad ogni costo, perché le serate difficili, le serate storte capitano a tutti, anche ai grandi campioni, ma Messi però non ha fatto il Messi, ma la sua piccola parte, secondo me, non dico che l'ha fatta fino in fondo, ma lo sto vedendo anche adesso su Sky Sport 1 che sta ridando la partita. Ha portato a spasso il cane, no? Come si dice in gergo, però l'ha portato a spasso abbastanza sovente, di palloni ne avrà persi un paio, non di più, e il problema è che nessuno si inseriva, e che soprattutto ho la sensazione, vedendo giocare il Barcellona praticamente ogni settimana, più di quanto non seguo le squadre italiane, ho la sensazione che davvero nelle serate di scarsa vena della squadra Ibra gli faccia da tappo, non gli fa da sponda, da terminale, o da appoggio, o da pivot, gli fa da tappo. Non ha questa impressione anche lei? Già nell'Inter, sì. E ancora una cosa velocissima invece riguardo i Balotelli, ma non tanto di Balotelli, che secondo me comunque è un bambino, che comunque per i due palloni che ha toccato, secondo me non stava sbagliando, poi è stato massacrato dal pubblico e ha perso la testa. Però il comportamento di Stankovic, che forse sarebbe un miglior tutor rispetto a Materazzi, che da virgolette papà ha raccolto la maglia e l'ha nascosta cercando di tamponare il gestaccio che aveva fatto, è stata una bella cosa. Forse sarebbe meglio che i giornali sottolineassero questo comportamento e non il fatto che Materazzi forse gli ha messo le mani addosso. Ma forse mica tanto. Io comunque, vabbè, sarà che è un'idiosincrasia per Materazzi e quindi ripeto, cioè se comunque non ripeto niente, quella è la mia opinione. Ci sono un sacco di saluti e di abbracci a Hermes, l'autore di quella, il novantenne di Reggio Emilia di cui ho letto prima quella lettera. C'è anche un messaggio firmato Elio, in cui Hermes viene definito, non vi dico come, con un Forza Inter subito dopo, e veramente ogni tanto io mi vergogno di avere questo numero di SMS a cui anche i decerebrati possono evidentemente accedere, no? Ma d'altra parte questo è il bello della diretta ed è il bello della partecipazione, che anche un minus abens possa avere accesso a questo 349-238-6666, lo ricordo. L'appuntamento con il ripasso della storia, il 21 aprile nel calendario dello sport antico e recente, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 22 aprile 1970. A Strasburgo si gioca lo spareggio della semifinale di Coppa delle Coppe tra la Roma di Herrera e i polacchi del Górnik. All'andata, disputata all'Olimpico, la sfida si era conclusa sull'1-1, mentre al ritorno le squadre avevano nuovamente pareggiato per 2-2 dopo i supplementari. Anche la terza sfida si prolunga oltre i tempi regolamentari e al termine dei supplementari il risultato rimane sull'1-1. Bisogna quindi ricorrere al sorteggio, ma la fortuna non è dalla parte del capitano giallorosso Peyrò. In finale ci vanno i polacchi, che perderanno contro il Manchester City. Górnik-Roma è stato l'ultimo caso in cui il destino europeo di una squadra italiana è stato deciso da un sorteggio. Carino questo Marcord. Giovanni, se Julio César non fa quei 2-3 miracoli oggi si parlerebbe di un'altra partita. Che ne pensa? Ma penso che gli episodi sono stati tanti. Penso che tra un miracolo e l'altro, un miracolo, un paio di belle parate di Julio César e un grande salvataggio di Russo, in mezzo c'è stato anche Snyder che inciappa sulla palla all'ultimo minuto per evidente stanchezza e non riesce o a far gol lui o a darla a Balotelli, che è solo davanti alla porta. Insomma, gli episodi alla fine ci stavano. Certamente io concordo con un'altra analisi che ho appena letto sul display, adesso la vado a cercare, non la trovo, la troverò più tardi. Allora sentiamo Matteo dalla provincia di Macerata, buongiorno. Sì, salve Garanzini, buon pomeriggio. Ho sentito che lei ha chiesto degli interventi più tecnici, ma purtroppo mi fermo ancora sui comportamenti. Vabbè, ma no. Che credo siano lo stesso molto importanti. La prima cosa è per quanto riguarda il comportamento di Totti. Io credo, e voglio essere in buona fede, che Totti quel gesto, senza tutte quelle reazioni, quel parapia a fine partita, non l'avrebbe fatto. Questo gesto è stato fatto. Io non l'avrei punito, purtroppo, però deve essere punito perché c'è un precedente delle manette di Mourinho, che secondo me come peso ha quasi la stessa valenza. La seconda cosa, il secondo puntualizzazione riguarda Balotelli. Ho sentito ieri in tarda nottata su Sky Caressa ha avuto l'analisi perfetta. A me non dà fastidio quello che ha fatto Balotelli, a me dà fastidio il motivo per cui lui si è arrabbiato. Cioè lui era sereno, ha parlato con Mourinho, il Mourinho l'ha messo vicino al quarto uomo. Stava per entrare Messi dalla comitata a Maicon, Mourinho gli dice mettiti seduto che devo cambiare Maicon. Questo va negli spogliatoi, cioè andando negli spogliatoi ti sei scagliato contro tutta la squadra. Quando lo vanno a richiamare Mourinho dice Mario, devo andare a prendere negli spogliatoi, vieni, entri in campo, ti arrabbi, butti delle palle. Io non posso più giustificarlo. No, credo. Infatti da ieri sera sia ampiamente indifendibile, no? Perlomeno la parte dell'Inter. Poi un giorno da qualche parte ricomincerà pure, credo che il talento non gli manchi, la testa sì, oggettivamente. Poi io continuo a pensare che quest'anno sia stato aiutato male, o meglio, non sia stato aiutato da allenatore dintorni, però può darsi che mi sbagli. D'altra parte non è l'unico ragazzo di 20 anni che ogni tanto la fa fuori dal vaso, no? Non so come dire, ho sott'occhio l'intervista di Bossi Junior, non lo so, leggo la dichiarazione di ieri, leggo la sintesi dell'ansia di questa intervista a Vanity Fair. No, non tifo Italia, bisogna intendersi su che cosa significa essere italiano, il tricolore per me identifica un sentimento di 50 anni fa. E poi va avanti, mai stato al sud, al massimo a Roma, nella vita spero di provare di tutto, meno che i culattoni e la droga, eccetera, insomma, non comunque l'importante, cioè il sunto che interessa a noi, essendo un programma sportivo, è che Renzo Bossi, soprannominato dallo stesso padre La Trota, ha detto che non tiferà Italia perché non si identifica col tricolore. Gigi Riva ha commentato dicendo parole stupide e gravi, se inizia così in politica non andrà di certo molto lontano. Io preferisco la reazione di Rivera, che ha detto non vedo dove sia il problema se non tiferà Italia, anche perché nessuno se ne accorgerà. Thomas da Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Scusi magari l'emozione. Allora volevo parlare riguardante la lettera che ha letto all'inizio del tifoso romanista. Esatto. Purtroppo queste sono cose che quando uno frequenta certi ambienti o conosce certe persone è facile dire che sono cose dure da digerire, però sono cose all'ordine del giorno, perché in certe piazze purtroppo la moda dice così, vedi non solo Roma ma in particolare Roma, comunque anche Milano, Torino, indistintamente tra Milan, Inter, Juve, Toro. E la cosa che mi fa indignare è che, non so, ad esempio i tifosi del Cagliari è dall'inizio del campionato che non possono fare trasferte, stessi quelli dell'Atalanta, eppure a Roma, calcolando che in vari anni ci saranno stati in circa 3 anni 30 coltellati, non è mai stata presa nessuna misura. E questa secondo me è una forma di istigazione verso le altre tifoserie. No, ecco, vediamo di non far confusione. Vediamole. È un trattamento privilegiato, sbagliato, che Roma non mettiamola merita. Così, allora, ecco, perché se continuano a pestar duro sulle tifoserie, sugli ultra bergamaschi o su cosa, non fanno mica niente di sbagliato. No, ma Bergamo è Cos'è, cioè, un'oasi di pace? È molto calda, ma io non sono dell'Atalanta. Ma dico, io adesso ho detto Bergamo per dire Cagliari, lei ha citato. Cagliari, no, tifoseria calda, però se va a controllare, non so, giornali di anni e anni indietro, non troverà mai un coltello che spunta da Bergamo, no, in altre piazze. Ma no, certo, magari hanno altre tecniche, hanno altre cose. Comunque non io direi che la guardia non si abbassa su nessun versante, no? E a nessuna latitudine, la si alza, la si deve alzare finalmente una volta per tutte e di molto su Roma, su questo non c'è dubbio. Tocca, mi pare, a Guido da Cuneo. Dica. Buongiorno Guido. Buongiorno a lei, sì. Stavo sentendo in macchina la sua trasmissione. Dottore, complimenti sempre, come si dice, non dilunghiamoci. Il discorso che voglio fare è questo: certamente ieri sera Balotelli ha fatto un gesto che io parlo sempre riferito ai ragazzini, perché questi sono forse il futuro, anzi me lo auguro, che non è un esempio, ma neanche forse l'altro giorno il gesto di Totti finita la partita con i ditini giù. Amò. E dopo tutto questo è successo di questo qua. Certo. A prescindere dal fatto, poi adesso parliamo se posso ancora un attimo di un problema dell'Inter, anche se non sono dell'Inter, di un portiere che secondo me merita valori veramente grandi, perché l'Inter ha una linea difensiva veramente buona a livello di cosa, per carità, ne capisco pochissimo. Sì, sembra anche a me. Grazie Guido comunque del suo intervento, che ho trovato comunque vagamente confuso. Soprattutto mi sembrava quella cosa lì su Totti eccetera leggermente superata dagli eventi. Sono stato un po' brusco, mi spiace, però dato che manca pochissimo alla fine del programma, ci sono tanti ascoltatori in attesa e c'era una notizia che mi piaceva dare. A Borgo Abugiano qualcuno ricorderà che era successo non molto tempo fa una cosa sgradevole, che io direi anche disgustosa, e cioè la squadra aveva abbandonato il campo nell'intervallo della partita. Il Borgo Abugiano si era ritirata perché un suo storico dirigente e speaker, tra l'altro, allo stadio era morto all'improvviso durante l'intervallo. Il giudice sportivo aveva dato partita persa, quindi partita persa al Borgo Bugiano e vinta al Fossombrone per questo ritiro. La Corte di Giustizia ha accolto il reclamo dei toscani, difesi dall'avvocato Grassani, ha cancellato lo 0-3, il punto di penalizzazione, e ha ordinato la ripetizione della partita, che ripartirà dal 26esimo nel secondo tempo. Quando ogni tanto c'è una buona notizia del mondo del calcio, credo vada data. Velocemente, Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo parlare, mi sente? Sì. Volevo parlare della partita di ieri sera. Secondo me il Barcellona ha perso a livello di gioco con l'acquisto di Ibrahimovic e la cessione di Eto'o, perché lo vedo Ibrahimovic come un essere estraneo a tutto quel gioco che faceva. Ancora non lo vedo complice con i suoi compagni. Guardi, io ero uno di quelli che era molto molto contenti che è andato via e a posto di Eto'o. Non è la sua squadra, il Barcellona non è palesemente la sua squadra. Quello che si può dire di sicuro è che Milito, cioè, è che l'Inter è la squadra di Milito, perché io credo che quello che ha fatto Milito quest'anno, ma al di là dei gol che ha segnato, cioè come è stato determinante nelle partite chiave, a cominciare da quella di ieri sera, è semplicemente incredibile, nonostante almeno un gol sbagliato, non da Milito all'inizio, ma una prestazione e a gioco lungo una dedizione assolutamente incredibile. Grazie a Carmelo Lauricelli in regia, a Flavio Suardi con Franco Piantanina in redazione. Buon pomeriggio.